Oggi io potrei andarmene. Perché? Abbiamo cantato 3 brani. Nel primo brano si parlava della grazia di Dio. Nel secondo brano si parlava dell'importanza del fermarsi, dell'attendere Dio. Nel terzo brano si parlava di Gesù al centro. E oggi parleremo proprio di questo. Ed è molto bello quando si crea questa armonia, sin dall'inizio, quando Gesù in modo molto chiaro parla a noi. Sapete, mentre preparavo questo brano, a un certo punto ho notato che sul calendario oggi è sicuramente dalle vostre app, dei calendari che strappate giornalmente, viene fuori giorno festa della Pentecoste. Dopo aver pensato a cosa poter portare per la Chiesa, mi sono accorto che coincideva con questo giorno. Oggi parleremo di Pentecoste. Quando parliamo di Pentecoste, la prima cosa che vi viene in mente qual è? Vediamo se c'è qualche coraggioso che alza la voce. Le lingue di fuoco, lo Spirito Santo. Non si sente. La colomba, quindi la potenza promessa da Gesù in Atti 1:8, che poi nel capitolo 2 si presenta ed è quello di cui abbiamo parlato adesso. Oggi parleremo della grazia di Dio che si manifesta nel giorno della Pentecoste. E parlando della grazia di Dio, vedremo come si manifesta la grazia di Dio in quel giorno. Quindi iniziamo a leggere Atti 2 fino al verso 11. Quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo. Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove si erano seduti. Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro di esprimersi. Ora a Gerusalemme soggiornavano dei giudei, uomini religiosi di ogni nazione che sotto il cielo. Quando avvenne quel suono, la folla si raccolse e fu confusa, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. E tutti stupivano e si meravigliavano dicendo: tutti questi che parlano non sono Galilei, come mai li udiamo parlare ciascuno nella propria lingua natia? Noi parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto, delle parti della Libia cirenaica e pellegrini romani, tanto giudei che proseliti, cretesi e arabi, li udiamo parlare delle grandissime cose di Dio nelle nostre lingue. Qui succede qualcosa di tremendo, di fantastico, di unico, di ripetibile. Sono presenti 15 popoli a Gerusalemme per una festa, la festa della Pentecoste, che era una festa di ringraziamento per il raccolto, ma era anche un segno di ringraziamento e di riconoscenza del popolo verso Dio che aveva dato la legge. E tutti i rappresentanti di questi popoli, adesso capiamo perché erano fuori da Gerusalemme, vengono a Gerusalemme perché durante questa festa si faceva un pellegrinaggio a Gerusalemme e tutti quanti ringraziavano e festeggiavano. 15 nazioni, c'erano ebrei in queste 15 nazioni, erano gli ebrei che erano stati deportati durante il regno assirio babilonese e dopo tanti anni le persone poi imparano a stare in quella cultura e rimangono lì e sono rimasti lì, però avevano a cuore la fede ebraica, quindi venivano a Gerusalemme. 15 nazioni di tutto l'impero romano. Qui si parla dell'Asia Minore, cioè dell'attuale Turchia, dell'Asia sud-occidentale, tutta la zona intorno a Israele. Si parla dell'Egitto, si parla di Roma, si parla della Grecia, si parla di Creta. Tutto l'impero romano è rappresentato. E all'epoca era tutto, era ciò che si conosceva. E queste persone che vanno a Gerusalemme per ringraziare Dio per quello che aveva fatto tanti anni prima, per cui erano ancora dei conoscenti e per quello che faceva ogni giorno per il suo popolo, iniziano ad ascoltare i discepoli che nel frattempo sono ripieni di quelle lingue di fuoco di cui si parlava. Lo Spirito Santo scende, lo Spirito promesso da Gesù prima che salisse al cielo, in quel giorno si presenta in modo potente e iniziano a parlare i discepoli le lingue di queste persone. Chi parlava in queste lingue non conosceva quello che stava dicendo, ma chi ascoltava poteva comprendere quello che Dio stava dicendo a ognuno di loro. In quel momento Dio stava parlando a tutto il mondo. In quel momento Dio, in modo chiaro, stava parlando a quei rappresentanti ebrei di ogni singola nazione di ciò che Dio è. E oggi parleremo di ciò che Dio è. Per comprendere in modo più chiaro come si manifesta in questo testo la grazia di Dio, prendiamo un passo parallelo. Per molti versi è uguale, per tanti altri versi è l'esatto opposto. Ed è un racconto che tante volte raccontiamo ai bambini e che noi conosciamo bene e troviamo in Genesi 11 ed è la costruzione della Torre di Babele. Genesi 11 dall'1 al 9. Tutta la terra parlava la stessa lingua e usava le stesse parole. Dirigendosi verso l'oriente, gli uomini capitarono in una pianura nel paese di Shinear e là si stanzarono. Si dissero l'un l'altro, venite, facciamo dei mattoni cotti con il fuoco. Essi adoperarono mattoni anziché pietre, bitume invece di calce. Poi dissero, venite, costruiamoci una città e una torre la cui cima giunga fino al cielo. Acquistiamoci fama, affinché noi non siamo dispersi sulla faccia di tutta la terra. Il Signore discese per vedere la città e la torre che i figli degli uomini costruivano. Il Signore disse, ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti una lingua sola. Questo è il principio del loro lavoro. Ora nulla impedirà loro di condurre a termine ciò che intendono fare. Scendiamo dunque, confondiamo il loro linguaggio perché l'uno non capisca la lingua dell'altro. Così il Signore li disperse di là su tutta la faccia della terra ed essi cessarono di costruire la città. Perciò a questa fu dato il nome di Babel, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra e di là li disperse su tutta la faccia della terra. Un'altra storia fantastica. Qui c'è la costruzione di una torre e qui tanti storici e studiosi dicono di tutto, di più, e a noi questo interessa relativamente. C'è chi dice che questa torre sia realmente esistita e ci sia tuttora, ovviamente quello che è rimasto in Babilonia, una torre costruita per il dio Marduk, 90 metri di base per 90 metri di altezza, una sorta di piramide che si voleva elevare verso il cielo. A un certo punto questi lavori in Babilonia vengono interrotti. Qualcun altro dice non è Babilonia, è un altro posto. E si parla di Nimrod, che è un uomo, la Bibbia lo descrive molto forte nella caccia, e lo descrive proprio il capitolo prima. E si parla di lui come fondatore della futura Babilonia. E qualcuno ha detto che quest'uomo aveva radunato tutte le persone perché in un futuro diluvio, estendendo in alto questa torre, non ci sarebbe stato problema per l'umanità. Ma quello che a noi interessa sapere e cogliere in questo passo è un'altra cosa. È un principio che qui sta scritto. Dobbiamo capire perché gli uomini costruivano questa torre. Per quale motivo il loro cuore aveva necessità di fare questo grande monumento. Qui si parla dell'orgoglio dell'uomo. Qui si parla della capacità dell'uomo nel costruire qualcosa con le proprie mani. Della capacità di passare da un tipo di costruzione rozza a un tipo di costruzione più sofisticata. Qui si parla di persone, lo abbiamo letto, che volevano la fama. Volevano diventare importanti. Volevano essere conosciuti da tutto il mondo. E costruendo una torre così alta, avrebbero anche spaventato gli altri popoli. Avendo una torre così alta, si sarebbero fatti un nome. E questi uomini si alleano tra di loro per dar vita a qualcosa che partiva dalla terra per salire verso il cielo. In questa storia, il popolo, questo popolo, non parla di Dio. Parla di quello che loro desideravano nel loro cuore. Dove era Dio? Al centro o fuori? Da questo progetto, dove si trovava Dio? C'era in questo progetto o c'erano altri sentimenti che stavano albergando nel cuore di queste persone? Sapete, questo episodio lo possiamo portare anche ai giorni nostri. L'uomo è incline al relazionarsi con gli altri ed è qualcosa di normale, è qualcosa di giusto ed è qualcosa che fa parte della nostra vita. Tante volte però queste relazioni hanno a che vedere con i desideri terreni del nostro cuore. E quindi ci fidiamo dei nostri amici e facciamo lega con loro, sapendo che ci fideremo sempre l'uno dell'altro, ma a un certo punto questa fiducia viene meno. Forse sei stato tradito. Quante volte ci è capitato? Quante volte, anziché parlare bene di noi, hanno parlato contro di noi? Quante volte, anziché difenderci, ci hanno bullizzato? Forse è capitato. Forse è capitato di porre fiducia nel coniuge. E quando abbiamo avuto piena fiducia nel nostro coniuge, a un certo punto questa fiducia è venuta meno. E ci siamo sentiti sprofondare. Una delle cose che io sento tante volte, e io non accetto, attenzione, noi non giudichiamo le persone, però siamo chiamati a non tollerare il peccato, è una bugia che il nemico sta mettendo dentro il matrimonio, tra i coniugi, cioè non provo più un sentimento. Com'è possibile non provare più un sentimento? Com'è possibile se a un certo punto io mi svegliassi e dicessi, Enza, io non ti voglio più bene? Sicuramente c'è qualcosa dietro che mi fa dire questo. Sapete cos'è? Quando noi poniamo la nostra piena fiducia e soddisfazione in un uomo o in una donna, prima o poi veniamo traditi perché abbiamo a che fare con persone imperfette come noi. E lì inizia il risentimento, l'amarezza, e a volte si può trasformare anche tutto in odio, e poi arrivi in uno stadio in cui preferisci non provare più nulla, perché stai meglio, ma in realtà dentro non stai bene, perché stiamo covando tutta una serie di cose, tutta una serie di sentimenti. Magari li stiamo mettendo sottoterra, ma non li abbiamo sradicati. Quando la Bibbia ci parla di perdonare, di darci un'altra opportunità, di venire incontro all'altro, di sopportare. Costruiamo una torre quando ci mettiamo assieme ad altre persone per realizzare dei progetti terreni, per fare impresa. E magari veniamo delusi da queste persone e ci diciamo, perché mi ha fatto questo? E ci sarebbero tanti esempi che possiamo portare e pensare a quante volte siamo umani, il cuore dell'uomo fondamentalmente è egoista e quante volte ci dimentichiamo nelle relazioni che viviamo ogni giorno di mettere Dio al centro. E tante volte le torri che noi costruiamo sono costruite dalla nostra saggezza, dalle nostre capacità, dal nostro saper lavorare. Magari ci sentiamo anche bravi in quello che facciamo, ma senza Dio al centro della nostra vita, prima o poi troveremo la delusione. Sapete che succede a queste persone che costruiscono la Torre di Babele? A un certo punto Dio interviene e il loro linguaggio è confuso e non si capiscono più tra di loro. Ora io vi faccio una domanda. Quanti di voi conoscono almeno due lingue? Togliamo il dialetto, va bene? Ok. Almeno due lingue. Alzate la mano, c'è un buon numero. Quanti ne conoscono tre? Diminuiscono. Quanti cinque? Io so che c'è qualcuno, vero? Ok. Ci fermiamo a 5. Io vi dico una cosa. Possiamo pur parlare una sola lingua, tante volte non ci capiamo con una sola lingua. E questo passo dice proprio questo. Quando noi iniziamo a far emergere i desideri del nostro cuore, vogliamo realizzare qualcosa di bello su questa terra, vogliamo accumulare beni, vogliamo fare questo e quello. Quando iniziamo a relazionarci con gli altri, iniziamo a non capirci. E quando veniamo delusi dalle altre persone, sapete che succede? A me è successo, quindi io vi dico la mia esperienza. Il mio cuore si chiude così tanto che anche quando vengono delle persone della Chiesa a incoraggiarmi, sapete cosa dico io? Da un lato dico grazie e dall'altro dico ma non mi stanno capendo. Non stanno capendo quello che sto vivendo. Ma in realtà è così, perché è la mia esperienza personale. Perché sono così pieno di amarezza, di veleno, di rabbia, che non riesco più a percepire la realtà. Ma quando apriamo il nostro cuore a Gesù, cambia tutto. Quando apriamo il nostro cuore a Gesù, Lui parla e adesso vedremo come alla nostra vita. Quando apriamo il nostro cuore a Gesù, tutto cambia. E quando vengono i fratelli e le sorelle a parlarci, allora è tutto chiaro, allora è tutto svelato. Sapete perché? Perché siamo tornati a mettere al centro Gesù. Eppure Gesù è sempre lì. Eppure Dio è sempre lì. Questo popolo si è dimenticato di Dio ed è stato disperso. E questo racconto ci ricorda la dispersione degli ebrei. E torniamo in Atti 2. Gli ebrei sono stati dispersi a motivo del fatto che a un certo punto, anziché piegarsi e dire «Signore, sei tu l'unico che può cambiare le cose», si sono ostinati ad andare avanti con i loro sforzi. Quando Dio ha dato la legge al popolo, ha parlato con una sola lingua. Ci ha messo pure una bella firma. Il popolo ha letto e ha detto noi obbediremo. Ma poi sapete cosa è successo? Che nessuno su questa terra è riuscito ad obbedire alla legge. Nessuno, nessun uomo. Solo Gesù è venuto, ha obbedito e adempiuto la legge. Ma nessuno di noi uomini è riuscito. Infatti è scritto che tutti abbiamo peccato e siamo privi della gloria di Dio. Il popolo ebraico disperso si ritrova a Gerusalemme. Erano soli, non avevano nulla. Erano soli come tante volte ci sentiamo soli noi, quando le persone ci vogliono incoraggiare e non riusciamo. E decidiamo a un certo punto che forse è meglio lasciare la Chiesa perché nessuno ci capisce, perché dentro di noi c'è risentimento, c'è amarezza. E le cose non cambiano. Erano persone sole. Ma a un certo punto Dio si rivela in modo glorioso a quel popolo, ma anche a noi. Nella legge Dio ha parlato con una sola lingua e la legge ha portato il giudizio e la morte. Ma Dio non ci ha lasciati morti, perché Dio è vita, perché Dio è vivo e perché Dio ci vuole vivi. Nel giorno di Pentecoste Dio si è manifestato, lo Spirito Santo è sceso e ha parlato in tante lingue. La grazia di Dio si manifesta in tutte le lingue che noi conosciamo e non conosciamo. Dio parla alla nostra vita, Dio parla con la nostra lingua, Dio conosce quello che stiamo vivendo, Dio conosce il nostro linguaggio, Dio conosce quello che noi proviamo e che forse gli altri non possono comprendere, Dio lo comprende. La grazia di Dio si manifesta in questo modo, in modo glorioso. E in quel giorno Pietro era lì, possiamo dire che improvvisa. In realtà è lo Spirito Santo a dare le parole, non ha preparato nulla, inizia a parlare, 3.000 uomini si convertono, donne e bambini insieme, le persone iniziano a battezzarsi e poi dicono a Pietro: cosa dobbiamo fare? E Pietro risponde: pentitevi, sarete battezzati, riceverete lo Spirito Santo. Sapete, anche la religione mette dei vincoli così forti che l'uomo tende a crollare. Tutte le religioni di questo mondo ci parlano di sforzo umano per raggiungere qualcosa. Ci sono le religioni induiste, la religione buddista, che dicono che noi possiamo uscire fuori dalla nostra pena attraverso la meditazione. Però poi quello che possiamo fare è vivacchiare su questa terra e non poter mai progredire a livello sociale e economico in attesa di reincarnarci in qualcos'altro. Gesù non c'è. Ci sono delle religioni dove ci sono tanti precetti, dove devi fare dei pellegrinaggi, dove devi fare delle elemosine, dove devi fare dei digiuni, ci sono delle leggi, ci sono centinaia di precetti da rispettare, ma Gesù non è presente. Invece Dio è venuto su questa terra, si è fatto uomo, Gesù è venuto a morire per i nostri peccati e il cristianesimo ha qualcosa di speciale in questo. Noi non crediamo in una religione, ma crediamo che Gesù è venuto per noi a morire per i nostri peccati, è risuscitato, è salito al cielo, ci ha donato lo Spirito Santo. Non dobbiamo fare nulla, non dobbiamo muoverci in nessun modo, non dobbiamo costruire nulla. Sapete perché? Perché Dio dal cielo ha aperto una strada, perché Dio dal cielo ha creato una torre che dal cielo scende verso terra e che al centro ha Cristo Gesù, e noi siamo lì, Lui è al centro e noi siamo intorno a Lui. Tante volte noi ci mettiamo al centro, tante volte noi mettiamo il nostro ego, il nostro egoismo al centro di ogni cosa. Gesù ci ricorda che Lui è al centro e noi siamo intorno a Lui. Nel giorno di Pentecoste è nata la Chiesa. Lì possiamo vedere in modo chiaro il corpo di Cristo Gesù. Siamo noi, la sua Chiesa. E Dio ci chiama con la sua grazia, ci porta a sé, ci attira a Lui per farci vivere di gloria in gloria. Se abbiamo letto la Torre di Babele, abbiamo visto come viene esplicitato il giudizio per l'uomo. Se abbiamo visto in Atti come la grazia di Dio parla all'uomo, Dio ha uno scopo: portarci in cielo. Parliamo adesso un po' dell'eternità, dato che è da inizio anno che parliamo di questo tema. Parliamo di quello che c'è nell'eternità, la gloria di Dio. E leggiamo Apocalisse 7, 9, 10. Versi 9 e 10 del capitolo 7. Dopo queste cose guardai e vidi una folla immensa che nessuno poteva contare, proveniente da tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue, che stava in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, vestiti di bianche vesti con delle palme in mano, e gridavano a gran voce dicendo: la salvezza appartiene al nostro Dio che siede sul trono e all'agnello. Popoli, nazioni di tutto il mondo, lingue diverse, eppure ci comprenderemo e ci capiremo. Non so come sarà, ma sarà qualcosa di glorioso e noi daremo gloria a Dio. Dio fa grazia per portarci verso la gloria che appartiene a Lui. Io non so se oggi ci sono persone con dei pesi che stanno vivendo solitudine, scoraggiamento. Forse ci sono situazioni familiari che pesano, forse ci sono situazioni lavorative che pesano, forse c'è qualcosa che ti fa sentire sempre più solo e disperso. Lo Spirito Santo oggi sta parlando alla tua vita. Possiamo chiudere i nostri occhi? Se hai bisogno di un tocco dello Spirito Santo, se hai bisogno che lo Spirito Santo possa far sentire il suo amore, la sua potenza, se hai bisogno di sentire di nuovo Gesù al centro della tua vita, in questo momento alza la tua mano. Grazie. Dio è sempre vicino a noi. Tante volte siamo noi a mollare qualcosa. Capita anche a me. Tante volte siamo noi a perdere di vista quel centro. Ma Dio fa grazia e conosce ognuno di noi. Conosce il peso che ci portiamo e vuole che lo deponiamo alla croce. Nel nome di Gesù proclamiamo che ogni peso in questo momento possa essere depositato, che possiamo sentire tutti la tua pace, il tuo amore, che possiamo sentirti vicino a noi. Grazie perché da te noi non siamo mai delusi. Grazie perché tu hai le parole giuste per noi. Grazie perché tu parli i nostri linguaggi e ci comprendi. Grazie in Cristo Gesù.